protagonista di questo film documentario è Luigi Linari. Luigi oggi ha 87 anni, vive in un paesino nella provincia di Verona e da 60 anni si dedica alla realizzazione di una mastodontica installazione artistica che chiama appunto La Ricerca, da cui il nome del documentario. Si tratta di una collezione di decine di migliaia di sassi raccolti tra i ghiaioni del fiume Adige e tra le montagne della Lessinia, che sono simili a misteriose sculture preistoriche. Con questi sassi Luigi ci porta in un viaggio nel tempo, appunto nella preistoria, alla ricerca di memorie perdute, un po' come se fosse l'infanzia, alla ricerca dell'infanzia della nostra specie, per indagarne quindi la profondità della natura umana anche a partire dal nostro complesso rapporto con l'ecosistema. Ecco, tu Giuseppe sei stato tanti anni a fianco di Luigi Linari, no? L'hai seguito nel suo lavoro, nella sua ricerca appunto, e che cosa ti è rimasto più impresso, che cosa ti ha insegnato con la sua arte Luigi? Il percorso produttivo di questo film è stato molto lungo e travagliato. Il primo incontro con Luigi è stato nel 2015 e da lì è nato appunto un percorso che in 8 anni ha portato alla realizzazione di questo film. Grazie anche a tutto questo tempo c'è stata la possibilità con Luigi di instaurare un rapporto di fiducia e di amicizia anche a prescindere dal film, e devo dire che è stata sicuramente per me un'esperienza molto arricchente. Quello che è il punto di vista di Luigi, con il suo appunto evocare delle memorie preistoriche, ci porta veramente a rivedere quello che potrebbe essere, diciamo, il nostro atteggiamento nei confronti della natura. Lui è un testimone da un lato della preistoria con appunto i suoi sassi e da un altro il suo essere per 60 anni testimone dei cambiamenti del fiume Adige, lo porta chiaramente anche a riflettere su quello che in quanto esseri umani facciamo, insomma, all'ambiente che ci circonda. E quindi sicuramente è stata un'esperienza molto bella, a prescindere dalla realizzazione del film è stato molto arricchente. Ecco, come sei entrato a contatto con la storia appunto di Luigi Linari e con i suoi migliaia di sassi? Ecco, come sei arrivato a lui? È stato un incontro fortuito, come spesso succede, con Lisa Fierro, che poi è diventata anche una delle coautrici, delle coideatrici e coproduttrici del film. La prima volta che incontrai Lisa, nel dicembre del 2014, mi fece vedere alcune foto dell'opera di Luigi Linari e semplicemente da quelle foto la meraviglia fu tale che, insomma, è scattato un moto di curiosità e meraviglia, per cui da lì a poco ho incontrato, grazie a lei, Luigi, e poi da lì è nato tutto questo percorso. E spero, diciamo, di poter alla fine ora di questo percorso, nel momento di restituzione anche al pubblico di questa bellissima esperienza, di poter restituire anche quella meraviglia, quello stupore che da cui è nato tutto. Ecco, siamo in una radio, quindi non possiamo non parlare anche di musica, e insomma c'è un'ottima colonna sonora originale che si trova all'interno del tuo documentario, di un compositore di musica elettronica molto celebre e anche molto legato all'Italia, ovvero sì. Nicolas Jaar, giusto? Esattamente, esattamente. Anche questo è stato un incontro bellissimo, diciamo. È partito tutto da una mia richiesta a Nicolas di poter utilizzare un suo famoso brano di uno dei suoi primi album, di Colomb, da Space of Illinois, per i titoli di coda. E da lì lui poi vide il premontato del film, e gli è piaciuto così tanto che ha detto: ma posso farti tutta la colonna sonora? Ovviamente io stentavo a crederci, ma è andata così. E quindi da lì è nata una collaborazione bellissima. Io sono veramente molto grato, Nico è una persona di incredibile sensibilità artistica ma anche umana, ovviamente, e diciamo che credo che, insomma, il suo apporto al film sia notevole da tanti punti di vista. Abbiamo avuto modo di ragionare insieme anche su tante scelte narrative, diciamo, all'interno del film, e quindi, insomma, gli sono molto grato per questa collaborazione. Questo giovedì, come dicevamo, sarai qui a Bologna in sala presente al Cinema Teatro Orione. Cosa ci aspetta in questa serata? Ma sicuramente, appunto, vedremo insieme il film, che è la cosa principale. Certo. E insieme a me in sala ci sarà appunto Lisa Fierro, che, come dicevo, è stata coideatrice e coproduttrice del film, quindi ci sarà anche lei, e dopo la proiezione ci sarà la possibilità anche di dialogare col pubblico, di parlare e riflettere su quello che il film, spero, insomma, lasci al pubblico, e su qualsiasi curiosità o altre, insomma, altre idee, altre discussioni da cui, che possono nascere dalla visione di questo film. Vi aspettiamo numerosi. Grazie mille, Giuseppe. Grazie a voi, buona serata, buon pomeriggio.